Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. In oceano di persone in 3 milioni e 700 mila sono scesi in piazza in tutta la Francia per dire sì alla libertà e per dire no al terrorismo. Questo abbraccio ieri a Parigi lo hanno dato quasi 2 milioni di persone in quella che è stata definita la manifestazione più imponente nella storia del paese. Sono bastati pochi metri percorsi insieme fianco a fianco lungo Boulevard Voltaire per riunire quasi 50 capi di Stato e di governo planetari attorno a un simbolo, Charlie. Franco Cardini, professore di storia medievale a Firenze, grande conoscitore dell'Islam. Ecco, dopo Parigi, tra Islam e Occidente sarà sempre più difficile dialogare? A mio avviso è evidente che sarà sempre più difficile dialogare nella misura in cui non ci sarà la volontà e l'intelligenza di dialogare. Noi andiamo in generale per schemi, ma quando parliamo di Occidente, quando parliamo di Islam, queste sono parole, le cose sono diverse. Lei ha detto, professore, che appunto vede avanzare una crociata laica e democratica anche fra chi dialoga. Parigi ieri non ha dato una risposta diversa? Parigi ieri ha dato una risposta bellissima, commovente e nello stesso tempo per certi aspetti terribile. E da un lato era bellissimo vedere queste persone che cantavano, che ballavano, sì, che si abbracciavano. E terribile perché? Terribile perché sotto questa coltre si vedevano avanzare le crepe. Intanto si cominciava a dire sì, ma qualcuno non ci ha partecipato perché si inalberavano anche le vignette più compromettenti, più offensive nei confronti di credenti, non solo i credenti musulmani di Hebdo. Dall'altra parte si diceva sì, ma bene, je suis Charlie, ma perché non parlare di più anche dei poliziotti uccisi? C'era anche un musulmano, c'erano degli ebrei. Dall'altra parte poi c'è stata la manifestazione e che era unitaria, ma come tutte le cose erano una e molteplice. E poi c'è stata la cerimonia alla sinagoga della Victoire in presenza del presidente Hollande, in presenza del presidente Netanyahu, e lì naturalmente in primo piano, giustamente dal punto di vista degli organizzatori, sono passate le vittime del supermarket ebraico. Se anche estremisti come Hezbollah e Hamas hanno condannato i fatti di Parigi, vuol dire che quei terroristi sono figli di nessuno? No, non direi che siano figli di nessuno. Di chi sono figli? Cioè sono combattenti figli, militanti dell'Islam oppure no? Può darsi che appartengano a qualche cellula, a qualche gruppetto impazzito, o che loro non lo sanno, ma facciano parte anche di un quadro più ampio. Lo vedremo forse nei prossimi giorni. La lontana affiliazione di almeno uno di Said Chaouki a un gruppo che afferisce alla nebulosa. Ecco, ma allora perché gli estremisti come Hezbollah e Hamas li condannano? È un problema di concorrenza? No, li condannano perché non esiste il moderativismo e l'estremismo, questi sono fantasmi che ci ritagliamo noi, ma sono immagini di comodo. Li condannano perché l'Islam è estremamente complesso, li condannano perché noi dimentichiamo sempre, ma un grande studioso come Gilles Kepel l'ha ricordato proprio alla televisione parigina ieri, che nell'Islam è in atto una fitna, è in atto una guerra. C'è una guerra civile in atto in civile, religiosa, culturale, e anche una guerra di potere all'interno dell'Islam. A noi sfugge che i fratelli Chaouki e quell'altro povero disgraziato del supermarket in realtà fanno parte anche di questa fitna. Se appartengono ad Al-Qaeda, Al-Qaeda è nemico di tante cose, ammesso che esista come ce lo immaginiamo noi, e non è così, ma è nemico soprattutto dell'IS, dello Stato Islamico di al-Baghdadi. Ecco, ma professore, scusi, ma gli islamici che sono contro questo estremismo, perché non insorgono contro chi abusa della loro fede? Due cose da dire. Prima di tutto, noi svalutiamo regolarmente le voci che vengono da parte dell'Islam. E poi? Il rettore di Al-Azhar ha parlato chiaro, ha parlato chiaro il Consiglio Supremo dei Saggi della Repubblica Islamica dell'Iran. Noi facciamo orecchi da mercante, ma le risposte ci sono state. Seconda cosa, l'Islam non è una chiesa. L'Islam è come l'ebraismo, solo che gli ebrei sono 40 milioni di persone in tutto il mondo, l'Islam è 1,5 miliardi. L'Islam è un insieme di scuole, quindi di organizzazioni. È sbagliato, eccetera, pretendere una risposta da una voce sola, non c'è la Chiesa. Ecco, però i terroristi erano cittadini francesi, e questo è un dato nuovo. È il fallimento in qualche modo della cultura dell'integrazione su cui la Francia ha tentato di costruire un'identità? Cioè, identità e integrazione sono parole che possono trovare un punto d'incontro oppure no? Identità e integrazione debbono trovare un punto d'incontro. Dove? C'è un modo, e Papa Francesco l'ha detto con chiarezza, l'aveva già detto con chiarezza anche Giovanni Paolo II, c'è un modo solo per far tornare i conti: rafforzare e approfondire la propria identità, conoscerla meglio, e quindi riuscire a conoscere i rapporti che la propria identità ha con le identità altrui. Se noi conoscessimo sul serio la nostra identità occidentale, noi saremmo dei filo-islamici profondamente convinti. Se i musulmani conoscessero sul serio la loro identità, tutti, molti la conoscono, come molti di noi, ma altri no, sarebbero degli amanti sicuri e affettuosi sia della cristianità che dell'ebraismo. Ecco, ma allora Papa Francesco, che ha fatto del dialogo con l'Islam la sua bandiera, è un leader sulla strada giusta? A mio avviso Papa Francesco è assolutamente sulla strada giusta. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Naturalmente il problema del terrorismo è anche legato all'enorme problema della migrazione di popoli, che porta milioni di persone a cambiare vita, paesi, e l'arrivo di migranti clandestini e non in Europa ci coinvolge direttamente in modo anche drammatico. Ma come funziona questo mercato di esseri umani che gestisce questa migrazione di popoli? Gianpaolo Musumeci, giornalista, fotografo, videoreporter, autore con Andrea Di Nicola del libro Inchiesta, Confessione di un trafficante di uomini, ha fatto un racconto sorprendente. Ecco, ma l'idea quando le è venuta? L'idea ci è venuta dopo anni di racconto su uno dei più grandi fenomeni del nostro tempo, che è l'immigrazione, certo, trattato da un solo punto di vista, che era quello dei migranti. Quindi anche a un certo punto con toni anche patetici, giustamente, perché di fronte a tante tragedie non ci può che essere empatia. Però alla fine eravamo un po' stanchi di un racconto sempre uguale che diventava logoro. Certo. I titoli dei giornali erano sempre gli stessi, i titoli dei telegiornali. Cercare di capire dal punto di vista di chi traffica, non di chi è trafficato. Esatto. Diciamo. Ecco, e quanto tempo ci avete messo per fare questo, per mettere insieme su una sufficiente mole di testimonianze? Sì, noi abbiamo parlato con 12 trafficanti, 12. Tra scafisti e medi grossi boss, diciamo. E chi sono questi? Chi sono questi trafficanti? I trafficanti, no, che quelli sono... che avete incontrato, quelli, sì, che... Ma allora, fondamentalmente sono imprenditori. Sono imprenditori di quella che noi abbiamo chiamato la più grande agenzia di viaggi criminale del mondo. È un'agenzia che fattura dai 3 ai 10 miliardi di dollari l'anno. È il secondo business al mondo dopo la droga. Il solo Mediterraneo vale centinaia di milioni di euro. Sono persone che non sono quelle che vediamo noi a volte sui giornali. Non sono, no, quelli che vengono arrestati. No. Diciamo. Quelli sono i pesci piccoli. È come arrestare il piccolo pusher di droga di Scampia. Ecco. Il giorno dopo ce n'è un altro. Il ecco, boss, ma è i boss, questi, voi avete intervistato i boss ovviamente, quindi questi boss chi sono? Che cosa li lega, insomma? Allora, no, l'affare l'ha detto, ma la persona? Sì. Allora, sono in media quarantenni, persone sociali, capaci di tessere relazioni e di creare network, di creare rete. Ad esempio, uno che abbiamo incontrato al Cairo è un egiziano che raccoglie tutta la domanda di immigrazione dell'Alto Egitto, tutta, buona parte insomma, e li convoglia verso le reti libiche. Le raccoglie attraverso i social network? Eh? Le raccoglie, lui nella fattispecie no. Lui ha una vera e propria agente di una serie di agenti di vendita sul terreno, no? Cioè, visto che noi trattiamo un'agenzia di viaggi, sì, immaginiamo un Debian. Vanno a proporre il viaggio. Vanno proprio il viaggio, intercetta immediatamente se c'è un giovane di un piccolo villaggio che dice: ma io vorrei andare in Europa, vorrei andare in Spagna, vorrei andare in Inghilterra. C'è una persona che è un collaboratore di questo boss che dice: io ho la persona giusta per te, costerà 3, 4, 5 mila euro, per il pagamento ti metti d'accordo con lui, non ti preoccupare, tra due mesi sarai in Europa. Sono persone talentuose, hanno un talento criminale ma sono talentose, si inventano i cargo, si inventano gli yacht di lusso. Ma quali sono rotte. I... cambiano rotte? Sì. Ah certo. Continuamente. Sono tante reti che sono estremamente flessibili, estremamente veloci nel cambiare. Mentre le nostre forze di polizia sono per ovvi motivi anche, no? Ma lei, scusi se la interrompo, lei ha detto yacht di lusso, no? Cioè vuol dire che praticamente offrono dei viaggi a seconda della capacità di spesa delle persone reclutate? Quello è un aspetto. Diciamo che il viaggio low cost comporta anche il rischio della morte. E questo non c'è dubbio. E se io ho tanti soldi, sono un pakistano, ma ho a disposizione 15.000 dollari, io arriverò in Italia a Fiumicino con un passaporto falso, con un passaporto vero, o ad esempio con un permesso di soggiorno falsificato. Quindi dottor Musumeci, con gradi diversi di garanzie date dall'organizzatore del viaggio? Assolutamente sì, e gradi diversi di violazione di quella che viene chiamata la Fortezza Europa. Cioè l'Europa non si viola solo geograficamente, io non devo solo attraversare il Mediterraneo o fare la rotta balcanica o passare dalla Turchia, io a volte devo violare le leggi o sfruttare le leggi a mio favore, ad esempio i permessi di lavoro stagionali. Noi abbiamo scoperto un trafficante in Italia, un pakistano, che fa entrare 600 persone l'anno irregolarmente, poi le spaccia per afghane, fa in modo che chiedano asilo politico e lui non si sporca le mani. E la gente perché non tranquillamente si sporca le mani lui? E non si sporca le mani nel senso che non dobbiamo pensare a lui dove vive? Pizza. Esattamente, cioè dove vive Marte, lui? Lui dove vive? L'iconografia. Lui vive in centro Italia. Tranquillamente. Assolutamente sì, ed è si va insomma a altri business, fa il commerciante, alla Mercedes, però dice: io voglio bene l'Italia, l'Italia mi ha dato tutto, non farei mai del male a questo paese. Addirittura adesso dice: sto consigliando ai miei colleghi pakistani e ai miei compaesani di non venire in Italia perché non è più l'Eldorado, insomma c'è la crisi anche qui, quindi però loro non mi credono e vogliono comunque venire in Italia. E lui, questa persona, alla fine dice: sapete, alla fine io realizzo sogni, e questo io e Andrea Di Nicola crediamo sia una delle molle fondamentali, no, di questi imprenditori. Loro vendono sogni, e vendendo sogni possono chiedere anche prezzi molto elevati, ovviamente. Beh, prezzi molto elevati, ma insomma la grande maggioranza di quelli che vengono sono persone che rischiano la vita, che muoiono, tantissimi purtroppo muoiono, quindi tanti tanti soldi, è difficile immaginare che li abbiano. Ma allora noi dobbiamo pensare che innanzitutto molto spesso c'è un investimento da parte della famiglia del migrante e della comunità del migrante. Io ho conosciuto persone indiane a Punjab, bloccati a Ceuta, questa enclave spagnola in territorio marocchino, che avevano venduto tutti i terreni di famiglia per essere lì, e dopo 2 anni e mezzo ancora non erano in Europa, perché tecnicamente sì, è Europa, Ceuta e Melia, ma non possono entrare perché non aderiscono a Schengen, per cui erano bloccati in queste dolci prigioni, come le chiamavano loro. C'è uno sforzo economico gigantesco da parte di molte famiglie di migranti. Ecco, per ma arrivare questi, qua. Questi personaggi, questi trafficanti di uomini, manager, diciamo, come li racconta lei, che giro d'affari hanno? Cioè, quanti di quelli che si muovono, che arrivano, sono trafficati da queste persone? Ma allora, noi abbiamo tratteggiato la figura di un grosso boss turco, grazie alle rivelazioni che ci ha fatto uno scafista che aveva lavorato per lui, uno dei pochi che sapeva di aver lavorato per lui, perché una delle tecniche che viene utilizzata da queste organizzazioni è che alla fine tu, ultimo anello della catena scafista, non sai per chi stai lavorando, questa volta succede. E questo era così bravo che Muammar Kucuk, questo turco, questo grosso boss, lo voleva cooptare direttamente e fargli fare il salto di carriera, quindi non solo scafista ma organizzatore dei viaggi. Teniamo presente che questo scafista che abbiamo incontrato noi era un siberiano. Siberiano, scafista. Siberiano, sì, un ottimo velista. E Muammar Kucuk, che è l'ideatore dell'idea geniale, criminosa, degli yacht di lusso, gli faceva guidare gli yacht battenti bandiera americana, per esempio. Ma il passaggio sugli yacht quanto costava? Il passaggio sugli yacht sui $10,000 circa. Ogni yacht poteva valere $400,000, perché riusciva a imbarcare 40 afghani. Noi abbiamo calcolato, lavorando anche con la polizia, con i magistrati di Lecce, che Muammar Kucuk da solo, che è uno dei tanti boss che reggono l'immigrazione irregolare, è un uomo da 6 milioni di euro l'anno, ovviamente in nero, perché certo. sono criminali. Se noi pensiamo che Frontex... Ma quindi il giro da... Scusi, l'ho interrotto. Diceva Frontex... Se pensiamo che Frontex spende 80 milioni di euro circa l'anno per monitorare le frontiere, e di fronte abbiamo un solo boss che da solo fattura 6 milioni di euro con uno stratagemma come questo, ci rendiamo conto che stiamo svuotando il mare con un cucchiaino. Sì, proprio senza nessuna speranza di affrontare in nessun modo questo problema. Questo scafista siberiano, che è una persona estremamente... In America prendevano i gangster, arruolavano i gangster nell'FBI per farsi dire come fare. Ecco, non potrebbe essere una strada? Ma sicuramente una delle strade è parlare col diavolo, diciamo, quindi parlare anche con i cattivi, che è stato un po' il nostro tentativo, no? Cioè di smettere, esatto, di dire oh poveri migranti, anche qualcos'altro. Sì. Questo scafista siberiano ci ha detto non li fermerete mai, perché Mosè è stato il primo scafista della storia. E io sono come Mosè, ha aggiunto. E quindi in realtà, al di là della, come dire, della battuta, della che metafora, poi non è una battuta, sì, rivela un mondo che ma è di che giro d'affari pensiamo si stia parlando per questo tipo di persone, perché poi ci saranno anche lì vari gradi, ci saranno anche quelli che sono solo scafisti, che portano un piccolo gruppo di disperati. Certo, beh, l'esempio di questo turco è un uomo da alcuni milioni di euro l'anno. Si può essere trafficanti da alcune centinaia di miliardi di euro l'anno. Chiaramente dipende dal proprio giro, dalla rete che si riesce a instaurare. E i clienti chi sono? Sono tutti, mi pare di capire. C'è il viaggio low cost e c'è il viaggio di lusso. I clienti sono sia i cosiddetti migranti economici, anche se insomma la distinzione un po' odiosa se vogliamo, sia purtroppo, ed è quello che, come dire, fa saltare più sulla sedia a me e Andrea Di Nicola, i potenziali richiedenti asilo. Cioè, certo, troviamo incredibile che un siriano, per potersi salvare la vita, per scappare e esercitare un diritto che è quello della richiesta d'asilo, debba spendere 10.000 euro e affidarsi a un trafficante di uomini. Certo. Questo secondo noi è una cosa che non è degna, insomma, di un continente civile come l'Europa. Certo. L'ultima novità in merito a questo traffico, sì, sembra essere quella di utilizzare dei vecchi cargo come le Zaydin, Blue Sky, e sì, lanciarli senza comandante verso le coste italiane. La sorpresa, ne aveva sentito parlare, cioè no, è un salto di qualità, non saprei neanche che parola usare. È l'ennesimo cilindro, l'ennesimo coniglio dal cilindro dei trafficanti di uomini. Non ci ha sorpreso per nulla, perché avevamo studiato e lavorato ad esempio sul fenomeno degli yacht di lusso, no? Sì. Che vengono utilizzati soprattutto in estate. Uno pensa di trovarsi di fronte a una famigliola di americani in vacanza sull'Egeo e invece ci sono 40 migranti trafficati. Per cui il cargo no, non ci ha stupito. Anche perché, essendo quasi tutti richiedenti asilo dentro il cargo, non sono migranti che io devo nascondere, io trafficante. Li spedisco in piena visibilità. Quindi vengono molto distinti anche, caricati non casualmente. Ma diciamo, nella fattispecie il flusso siriano è enorme. Anche perché i richiedenti asilo poi hanno dei diritti. Esatto, esatto. Quindi non ho nessuna necessità di occultare il migrante. Se fossero per esempio tunisini, se fossero di un'altra nazionalità che non ha diritto alla richiesta d'asilo, allora dovrei escogitare altri metodi, come ad esempio nasconderli nei sedili delle auto, dentro i cruscotti, nei caravan, nei camion. Insomma, i metodi sono tantissimi, noi nel libro ne analizziamo alcuni, ma... Ma i più frequenti che voi avete scoperto, per chiudere, quali sono? Ma sono veramente tanti. A Calais abbiamo scoperto che c'è chi avvolge i migranti nella, o in sacchi a pelo con il ghiaccio per evitare lo scanner termico, e quindi li fa infilare nei camion una volta aperte le fascette di sicurezza, a chi sta provando a utilizzare la carta di alluminio, una specie di grosso domopack, proprio per evitare questo. Il trafficante di uomini è un imprenditore criminoso e talentuoso che 24 ore al giorno pensa a come violare la Fortezza Europa e come far entrare i migranti qua dentro. Ma ha bisogno che arrivino vivi per essere pagato o no? Sì, dipende molto anche dalle rotte e dai network. Il personaggio che abbiamo incontrato noi in Egitto diceva la reputazione conta in questo mestiere. Se io faccio morire troppi clienti è un problema, perché poi i nuovi clienti chiederanno in giro: ma tu sei andato in Europa, a chi ti sei affidato? E allora io non prenderò un tour operator o un'agenzia di viaggi che, come dire, ha un alto tasso di mortalità. Certo. Però torniamo al punto economico: io più spendo, più sono sicuro di arrivare sano e salvo in Europa. Senta, un'ultimissima cosa, ma quindi è una battaglia persa? Non esiste un modo di fermare i trafficanti di uomini? Bisogna spuntare le loro armi. Io e Andrea Di Nicola, adesso a un anno dalla pubblicazione del libro, stiamo lavorando su una sorta di manifesto un po' più operativo, insomma, no? Dopo aver studiato il fenomeno stiamo cercando di capire come si potrebbe. E come avete qualche anticipazione, dottor Musumeci? Bisogna lavorare sicuramente su una maggiore cooperazione di polizie e di magistrature tra paesi. Cioè, se io adesso arresto, come faccio ad arrestare un grosso trafficante libico? Io dico sempre, scherzando, prendo le pagine gialle delle bande armate in Libia e inizio a scorrere dall'A alla Z. Cioè, con chi parlo? Io, magistrato volenteroso di Agrigento, chi l'ho individuato? È impossibile. Però ci sono alcuni paesi con cui si può fare. Si può fare con la Turchia e qualcosa è già in corso. Si può pensare di farlo col Pakistan. Cioè, bisogna aumentare la cooperazione di giustizia internazionale, e questo non c'è dubbio. Avete corso rischi durante questa vostra inchiesta? Ma... cioè parlano volentieri? Tutti hanno una storia da raccontare, tutti vogliono dirti la loro verità, dirti ad esempio che non sono dei criminali. Uno è esordito dicendo: voi sui giornali italiani scrivete che siamo assassini, che non è vero niente, ti spiego io com'è la verità. Francamente io non mi sono personalmente mai sentito in pericolo, perché nel momento in cui hanno accettato di parlare, voglio dire, sarebbe stata una follia, no? Ognuno di noi ha una storia da raccontare, la loro storia è la storia di un criminale, ma il criminale vuole anche autoassolversi. Certo. E quindi ha tanta voglia di dirti come stanno le cose. Ecco, un'ultimissima cosa, dottor Musumeci, ma come è partito il primo filo di questo racconto? Da dove avete cominciato? Dunque, in realtà è andato in parallelo, perché poi Andrea Di Nicola è un criminologo, lavorava da tanto sul fenomeno, sugli atti, studiando, eccetera. Io andavo in giro, era dal 2006 che viaggiavo sulle rotte dei migranti, e uno dei primi step è stato stare nei posti giusti nel momento giusto. Certo. Stare ad esempio a Calais, dove ci sono, stare a Patrasso, stare in Tunisia, stare in Libia, dove ci sono le porte dell'Europa, lì troverai ovviamente i trafficanti. Eh beh, anche in Italia le porte mi sembrano che ce ne siano tante aperte, no? Sì, assolutamente sì. E poi bisogna muoversi, noi diciamo sempre, ci siamo mossi in maniera anticiclica. Nel momento delle grandi partenze dalla Libia non siamo andati in Libia. Certo. Perché noi abbiamo trascorso giorni con queste persone per indagare anche la psicologia, per farli parlare, per capire come hanno iniziato, perché, se si sentono criminali. Quindi non volevamo un'intervista di un'ora, no? Rubata. Certo. E per poi scappare, perché quando c'è grosso lavoro il trafficante non vuole il giornalista attorno, perché è un problema. Certo. E quindi l'idea era proprio di tratteggiare dei 12 ritratti di criminali, che ovviamente loro dicono: noi non siamo criminali, siamo benefattori e realizziamo sogni. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms. Mario, mi sembra che questa intervista con Giampaolo Musumeci apra veramente uno scenario, tra l'altro è un collega di Radio 24, uno scenario sospettabile. Lo scenario, perché questo è il vero punto su cui sono chiamati a discutere. Uno dei punti, diciamo, ma c'è certamente lo scenario, Quindi uno scenario con molti punti, dove sono chiamati a discuterne i governanti europei. Cioè, a me va benissimo che loro facciano una grande manifestazione, per carità, molto bello dal punto di vista dei sentimenti, solo che poi i sentimenti li metti da parte, ti devi sedere in un tavolo e devi prendere delle decisioni, e vedrete che si divideranno, anzi sono già divisi. Beh, insomma, a me mi ha impressionato molto questa storia di questi trafficanti che guadagnano più dei grandi boss della droga, no? Pietrangelo. Altro che, si aggiunge al traffico proprio di carne umana e lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, è il vero affare. È l'operazione che non è stata mai fatta. A maggior ragione quando i tempi erano molto più calmi di adesso, quando ancora per esempio c'era Gheddafi nel Maghreb, quando c'era per la possibilità di avere degli interlocutori, era quella di fare una semplice operazione di intelligence, entrare lì, altro che mafia, altro che Gomorra, andare lì e letteralmente sparare ai trafficanti di carne umana, di vite, a chi sfrutta l'uomo. Questa è la conseguenza del non averlo fatto. Ma sai, non, se non fai le cose prima, è inutile andare a spegnere l'incendio quando è già bruciato tutto a volte, infatti, no? Quindi questa è la situazione. La situazione del Nord Africa, noi in questa trasmissione abbiamo detto non so tante quante volte. Sì, insomma, è perfino noioso ripeterlo, ma è alle porte di casa, noi non abbiamo mai messo i piedi. E la Libia si è disintegrata ed è il problema numero uno per noi. Completamente disintegrata, come diceva Pietrangelo, anzi forse è bene che chiuda lui questo pezzo. Cioè, quello è il punto, è la porta d'ingresso, no? Certo. Ma noi non abbiamo sovranità e non abbiamo la possibilità di decidere rispetto ai nostri confini. Questo è il punto. Quando il caso Libia è esploso, era altrettanto esploso l'enigma di questa nostra Italia che non può decidere su se stessa. Penso che possiamo chiudere con Alberto da Vicenza che dice: li trovano i giornalisti, non li trova lo Stato. Che connivenza, barzelletta è. La polizia europea cosa fa? Dice Verruccio. Mix 24. Come comincia sulla metropolitana? Questa settimana deve cominciare per forza in un riavvio, e siccome è risaputo che la folla della giornata si divide in più turni, osservando la folla del primo turno, visto che i panificatori e i lattai non prendono i mezzi pubblici, ho riconosciuto nella folla gli impiegati, le commesse, gli studenti, gli stagisti, e ho notato a maggior ragione oggi quel modo di camminare mostrando eccessiva fretta, quasi come militari attendere gli agguati alla metropolitana per gremirla e per ghermirne il corrimano e occupare militarmente i sedili. Ecco, tutta questa fretta per svelare poi che cosa? Quello di voler far diverso il giorno ogni giorno, e ciascuno illudersi di poter essere estraneo al mondo, estraneo a se stesso. E ognuno, ho notato stamattina, provava a segnare a dito se stesso per prendersi la vita, dopodiché aspettare altri turni e ritrovarsi sempre in quello smarrirsi nella folla del turno primo il lunedì. Caro Mario, siamo alla tua pentola. Vai. L'astro du jour fait boom. Tout avec lui dit boom. Quand notre cœur fait boom boom. Charles René, vabbè, andiamo a Parigi, no? Come stavamo anticipando, un paio di cosette vorrei dirle così, giusto per essere politicamente corretto. Allora, grande adunata di piazza, va bene, tutto molto bene. Grandi sentimenti, va bene. Però anche, cari amici, un bel paio di contraddizioni, ma grandi. La prima, vabbè, i francesi, la democratica Francia, gli illuminati francesi, i figli dei numi, dei lumi, della rivoluzione e del progresso, chiudono Schengen. Va bene, molto interessante, no? È una cosa che funziona. E la seconda ancora più incredibile, cioè la richiesta di aiuto ai giganti del web. Allora, fatemi capire, cari intellettuali democratici, imbellettati. Ora, ieri il vostro supereroe era Snowden, quello che ha, no? Portato via i dati, i file della CIA. E la CIA, ovviamente, quelli di Langley erano il super nemico, insieme ai titani della rete, gli spioni, il male. E oggi, improvvisamente, chiedete ai titani della rete di controllare i dati per contrastare il terrorismo. Ieri libertà, oggi totale dittatura e totalitarismo della rete. Fatemi capire, ma finita la parata, che cosa volete fare? Io ho un sospetto che emergeranno tutte queste contraddizioni. È probabile, mi sembra che hai messo il dito nella piaga e io vorrei dare una buona notizia invece che ci riguarda, perché il Sole 24 Ore, da ieri i dati dell'ultimo rilevamento dice che il Sole 24 Ore è il primo giornale digitale, secondo nella somma delle coppie, ma il primo digitale, va bene. E lo ricordiamo anche che i nostri ascolti aumentano e sempre di più. Non lo dice mai, quello lo facciamo dire al giornale. No, diciamolo noi o lei. Oh, la Tardelli faceva di tutto, scongiuri, toccava qualsiasi cosa. È molto concentrata sulla cura delle 3D. Quindi... È brava, è così. Senti, mi fai sentire l'altra bolla? Sì. Noi dobbiamo dare un segnale forte alla destra. Votiamo un simbolo dell'Italia unita. Guarda la cazzo. Sì, Garibaldi. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Italiana Giuseppe Garibaldi. Olè, dai che ci siamo ragazzi, perché qua stiamo arrivando al Duca. Pietrangelo, tu hai già candidato le Quirinearie, come le vuoi chiamare? La Quirineide, cosa... Cosa candidi? Quirineide dà più il senso epico perché Quirinarie sembra la solita storia. L'epos della Grecia, vabbè, dobbiamo trovare Omero. Epico, se no poi diventa una cosa smanettosa. Hai ragione, sono d'accordo. Tu Giovanni, le tue Quirineidi le stai... Io mi tengo ancora le carte coperte. Grande, tutti al buio ragazzi. In ogni caso è iniziata una settimana importante. Molto, ne dovrebbero molto. Esserci le dimissioni, sempre col condizionato, del Presidente della Repubblica, il 13 finisce il semestre europeo di Renzi, il 14 dovrebbe esserci, diciamo, l'annuncio, poi vediamo. In ogni caso bisogna votare un nuovo presidente, questo è evidente. Quello è sicuro. Il pasticcio del Salva Silvio ha complicato un po' la partita, la legge elettorale va in discussione in Senato questa settimana, verrà approvata in realtà dopo l'elezione del Capo dello Stato, ma abbiamo una riforma post datata, una delle tante, perché poi entrerà in vigore nel 2016. La riforma del Senato si prende tutto l'anno, il 2015, quindi state tranquilli, c'è tempo per perdere tempo ancora su queste cose. Minoli tiene le carte ancora coperte, ma siamo pronti a scoprire. Ma siamo pronti, perché stiamo arrivando. Sì. Bene, lascio la parola. E intanto andiamo col Salamino. Salamini promozionali, Salamini libreria, numero zero fa già grandi numeri, il numero zero di Umberto Eco, quindi il grande tam tam che si è scatenato intorno al nuovo libro del semiologo, non ha confini. Ieri è stato da Fabio Fazio e nel fine settimana invece è stato tutto un gioco di fuoco tra Repubblica e il Venerdì di Repubblica, sempre in forma di dialogo, Eugenio. Di colloquio, certo, Eugenio Scalfari, ma poi Roberto Saviano, insomma l'argomento fondamentale qual è la macchina del fango, come i giornali fabbricano il fango, però oggi gliel'ha spiegato Eco. Si è confrontato con i grandi protagonisti dell'informazione, perché oggi a maggior ragione dopo tanto gioco di fuoco è arrivata la cosiddetta masculiata, che la masculiata sarebbe proprio l'ultimo botto, quello proprio dove fioccano i riflessi, i lapilli, più di Etna, insomma. Oggi sul Corriere della Sera il dialogo con Paolo Mieli, addirittura lo storico Paolo Mieli, lo storico nonché ex direttore lì a Via Solferino, nonché attuale presidente della RCS, cioè Rizzoli Libri, quindi ha fatto le cose in grande, insomma, anche l'editore ha partecipato, hanno fatto una grande conversazione, leggetele, sono due pagine. Dove? Lì, però credo sia un errore, Mario, non so se eravate parenti. Allora, Umberto Eco dice, però lo riferisce come se fosse uno slogan, un motto di Piero Ottone. Dice quella solita cosa dei fatti separati dallo Ma Secchi, non era di Lamberto, Secchi? Sì, Lamberto Secchi, ma non è mio parente. Ah, non era tuo parente. Panorama, ha inventato Panorama lui. Non vorrei fare il precisini, però Eco ha detto che, però se l'ha detto Eco, secondo me hai sbagliato. No. Se lo dice Eco, ne vuoi sapere più di Eco? Mio cugino, per esempio, copiava i temi dai libri di Leonardo Sciascia e il professore gli metteva sempre 4. A un certo punto mio cugino ha detto: professore, ma lei come si permette di correggere Leonardo Sciascia? Però, e tu come ti permetti di correggere? Ma quindi io devo leggermi questa cosa? Mi ti devi leggere questa cosa, però lì... Ma se te lo dice Mieli, fallo. Se lo dice Mieli, però Mieli finalmente dà una notizia, cioè rivela una cosa. Rivela una cosa. Parla delle gonne al Corriere della Sera. Non delle gonne. Però l'argomento è quello. Dice, afferma, rivela che la celeberrima frase di Silvio Berlusconi, che tanta infelicità produsse all'Italia intera, al suo destino politico, quando disse della Merkel, di Angela Merkel, è una culona inchiavabile. Bene, dice Mieli, non l'ha mai detta. Uno scoop di Mieli, pubblicità. Prima della pubblicità, scusa, lo scoop è mio, non lo volete? Vai col tuo. Lo scoop è mio. Certo. Io so dove stanno in questo momento Silvio Berlusconi e Angela Merkel, dove sono stati prima, dove stanno adesso. Dove staranno sempre? Staranno qui sulla carrozzella. Come delizioso andare sulla carrozzella, sulla carrozzella, sotto braccio alla mia bella. Mix 24. E allora, Sara, oggi cosa stai pensando? Alla frase che si grida nascondino, Tana liberi tutti, perché mi sembra che si stia un po' giocando a nascondino in questo periodo. Cioè, siamo liberi tutti di fare quello che ci pare, purché non pretendiamo niente dal sistema Stato. Non è che mi sono fissata sulle partite IVA, è che sono proprio loro che attirano la mia attenzione. Infatti ho controllato, giusto per capire, nel 2012 erano oltre 3 milioni e hanno versato presumibilmente i contributi all'INPS come tutti. Ma se una partita IVA si ammala, che cosa succede? Succede che continua a versare i contributi all'INPS e poi si rivolge all'albo. E se non ha nessun albo? Succede che va sul sito dell'INPS e spera di rientrare nella casistica cavillosa dei fortunati, a cui è concesso almeno di sospendere il pagamento dei contributi minimi per un minimo di tempo. Eh sì, perché magari ha sbagliato il giorno o l'anno in cui aprire la partita, la sua attività, oppure può capitare che l'anno prima tu, lavoratore autonomo, hai guadagnato di più ed eri pure contento e non sapevi che così avresti rinunciato al diritto di avere un minimo di protezione sociale. E se la tua malattia è grave e lunga? Te la tieni oppure ti fai furbo e guarisci, ma mi raccomando, continua a versare i contributi minimi all'INPS. Insomma, partite IVA, come minimo qui c'è bisogno, come direbbe il nostro Renzi, della svolta buona anche per voi, e nel frattempo non ci resta che scacciare la tristezza. Tristezza, per favore vai via. Numero verde 349-238-6666 l'SMS. Ancora una bolla, Mario? Sì, vai. Sirius, è una cosa, senti. Una meraviglia sua. Allora, entriamo un po' nel futuro, che mi piace tanto, anche perché noi ce lo siamo fatti scappare, quindi, no, siamo là, che seguiamo, vediamo, noi seguiamo, gli altri lo fanno, noi così lo guardiamo. E un gruppo di scienziati e investitori, vi segnalo una cosa molto interessante, ha firmato un manifesto del Future of Life Institute, che mette in guardia sui rischi che si creeranno, quando i robot saranno più intelligenti dell'uomo. La cosa non è molto lontana da venire, come qualcuno pensa. Parliamo di un manifesto firmato da Tesla Motors, Hawking, quindi da quelli che oggi si occupano di innovazione. Il robot deve essere al servizio dell'uomo, non l'uomo al servizio del robot. Quindi, come vedete, piano piano tutte le cose di cui parliamo qui insieme capitano, succedono, non è un caso. E allora vediamoci quest'ultimo, prego, salamino. Pietro, no, vai. Volevi dire qualcosa sul robot? No, mi hai ricordato la frase del presidente del consiglio, del capo del governo: fate sapere al senatore Agnelli che nella nuova Italia non è l'operaio a servizio della macchina, ma la macchina a servizio dell'operaio. Doveva essere, eh? Poi sai, è andata così, non proprio. Quando i capi di governo doveva essere Salamino. Allora, io la so la storia, perché c'erano due demoni. Uno era Rostro, l'altro Zuppiddu, che se ne stavano su una finestra ad aspettare che si consumasse una storia d'amore, appunto Truman Capote, poi è diventato Truman un film. Capote. Insomma, Tiffany, allora uno, per fare colazione da Tiffany, deve sapere che adesso anche gli omosessuali hanno la loro fetta di mercato, quindi non solo Barilla. Tiffany si è aggiornata, si è adattata ai tempi, ai diktat imposti dallo Zeitgeist, e adesso prevede, insomma, degli anellini, delle collanine. Ho dimenticato? La Weltanschauung. No, che c'entra? questo tedesco. Allora, insomma, i tempi sono questi, bisogna aggiornarsi, e ho scoperto che tutte le aziende si stanno mobilitando. Per esempio, i kilt obbligatoriamente devono diventare pantaloni. I calzoni devono diventare gonne. Poi Wonderbra, no? Con i push-up. Adesso, sì, adesso non può fare solo i reggiseni, anzi non ne farà più reggiseni, ma farà solo cinti erniari. Quindi balocchi e profumi saranno obbligatoriamente unisex. Verrà abolito il rosso, perfino il rosso dei semafori. Ci sarà solo il rosso shocking, perché il rosso è considerato troppo sessista. Troppo sessista l'idea di mettere il tacco 12 alle donne, ma verrà messo soltanto agli uomini. Anfibi per le donne. Anfibi. Barilla si salvò, si convertì, ma solo un prodotto nel mercato non avrà scampo. Guarda. E non solo, perché ci sarà la Sharia islamica che proibisce l'uso di alcolici. Ma questo, il whisky, no, non ci sarà più. No, ascolta. No, aspetta. Ascolta. Whisky maschio senza rischio. È un whisky maschio senza fischio. No. È un rischio maschio senza whisky. No. Whisky maschio senza rischio. Solo questo è il whisky maschio senza raschio. No. È un whisky fischio senza maschio. No. È un teschio maschio senza fischio. Oggi va bene. Oggi dopo Parigi ritorniamo su un personaggio che è davvero, di cui si parla molto, Oriana Fallaci e le sue tesi sul terrorismo. Lo raccontiamo attraverso le sue parole polemiche dopo l'11 settembre, scritte nella rabbia e l'orgoglio. L'Europa sta diventando una gigantesca Andalusia. Per questo i nuovi mori con la cravatta trovano sempre più complici, fanno sempre più proseliti, ottengono sempre di più. E se non stiamo attenti, otterranno sempre di più, pretenderanno sempre di più. Fino a soggiogarci completamente, fino a spegnere la nostra civiltà. Ergo, trattare con loro è impossibile, ragionarci impensabile, cullarci nell'indulgenza o nella tolleranza o nella speranza un suicidio, e chi crede il contrario un illuso. Dopo il giornale radio con Marina Milone racconteremo la storia di Oriana Fallaci. Ecco, professor Simonelli, storico della televisione, dell'Università Cattolica, nostro amico, allora questo canone dov'era questa settimana? La RAI ne ho visto poco canone. Guardi, sentiamo cosa dice Jacques Brel. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de... Allora, dov'era il canone, professore? Poca roba. C'est Parigi dans la mesure, dice Jacques Brel, e Parigi ci ha detto che di canone ce n'è veramente poco, perché da mercoledì sera infuria una polemica sul fatto che la RAI non ha dedicato le prime serate, nessuna rete RAI ha dedicato le prime serate ai fatti di Parigi mercoledì sera, lasciando andare in onda le fiction. Il guaio però non è soltanto questo, il guaio è che quando ha deciso di dedicare le prime serate ha fatto peggio ancora, perché la prima serata di Agorà giovedì sera, la prima serata di Porta a Porta venerdì sera, ha portato la televisione italiana indietro di 20 anni. Professore, posso fare una piccola osservazione? Era sufficiente un minuto dopo gli attentati mettere in onda Rai News 24 a serpentone, su, alternativamente su Rai 1, Rai 2, Rai 3, e avremmo avuto immediatamente il servizio pubblico. Non ci ha pensato nessuno. Il vizio è quello della tolkizzazione. Si continua a fare dibattiti con una contrapposizione tra non si capisce bene quali due schieramenti, e siamo tornati ai tempi della guerra dell'Afghanistan o della seconda guerra del Golfo, ve li ricordate, in cui si schieravano gli schieramenti italiani per leggere i fatti stranieri, ancora una volta 20 anni buttati via. Insomma, devo dire, ieri pomeriggio è accaduta una cosa davvero istruttiva. Durante il pomeriggio di Rai 1, Domenica In, ogni tanto si dava la linea a Parigi, dove un bravo giornalista di Bella con un ospite prestigioso raccontavano e approfondivano, commentavano quello che capitava. Poi si tornava in studio e si metteva in scena il talk, una cosa pazzesca, veramente un servizio pubblico a singhiozzo. Ogni tanto il servizio pubblico che raccontava quello che succedeva a Parigi, ogni tanto il non servizio pubblico, il teatrino del talk di Giletti o di chi sia, per far parlare i politici italiani. Va bene. Allora, il servizio pubblico, questa inteso come RAI, questa settimana è bocciato. Grazie, professore. Prima della pubblicità, Apriti cuore di Lucio Dalla. Cambiarò!